140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Artist First, Milano. In attesa del 50° anniversario dei Pooh, un album solista per Dodi Battaglia insieme al chitarrista Tommy Emmanuel. Dove è andata la musica? È un'affermazione pesante, ci è mancato poco che mettessi anche un punto esclamativo, no, nel senso che mi sembrava molto pretenzioso. Intanto c'è da dire che Dove è andata la musica è un racconto di una storia tra due persone che, non avendo più l'armonia fra di loro, si chiedono dove è andata appunto l'armonia che c'era fra di noi, le coccole, la comprensione, l'intimità e tutte queste cose. E poi chiaramente ha un'altra sfaccettatura appunto di chiedere a noi stessi dove è andata la musica, ma senza nessun tipo di presunzione di voler raccontare dove è andata la musica. Però mi sembrava bello per due persone che hanno calcato in maniera particolare, poi Tommy, i palcoscenici più importanti del mondo, raccontare un pochino dove era andata la musica, anche perché questo disco è talmente pieno di musica diverse una dall'altra, sono dei brani dove ti sembra di andare con una jeep all'interno dei deserti australiani, sono dei brani che ti sembra di essere in un club di flamenco, dei brani in cui ti sembra con un'orchestra sinfonica, l'altro ti sembra essere in un saloon del Tennessee a Nashville, per cui insomma è un po' un compendio della musica per quello che è la nostra maniera di intenderla, tanto è vero che nella copertina, come hai visto, ci sono due piccoli chitarristini, uno al top e l'altro al bottom, cioè sopra e sotto del mondo. Questo va a voler significare che la musica spesso può essere la congiunzione dei sentimenti mondiali. Di partire con un singolo in cui ringrazi. Cos'è un bilancio pre-bilancio dei Pooh? Beh, è una cosa dovuta. Io credo che insomma dopo i Pooh, sai, festeggiano 50 anni nel 2016, per cui l'anno prossimo. Io credo che arrivati a tanti soddisfazioni, no, professionali che ho avuto insieme ai miei colleghi, appunto, insomma, la prima cosa che volevo dire in occasione dell'uscita di questo disco è appunto ringraziare la buona sella, la fortuna, il pubblico, la fortuna degli incontri anche, no? Che possono essere stati quelli che mi hanno messo in condizione di venire a far parte dei Pooh, grazie proprio a Valerio Negrini, che mi ricordo venne a sentirmi suonare in un club che c'era a Bologna e io avevo 15 anni e io non so come abbia fatto lui a poter mai pensare che un ragazzino di 15 anni che suonava mediamente abbastanza male la chitarra ai tempi, perché lo suonavo da poco, avrebbe un domani potuto diventare il chitarrista dei Pooh. Non ultimo la fortuna, devo ringraziare la fortuna di aver incontrato un grande musicista come Tommy, col quale ho avuto inizialmente un rapporto di amicizia, di stima, e poi è diventato un disco che proprio, guarda, proprio stamattina stavamo dicendo che avrà delle versioni anche in inglese, lo vorremmo far pubblicare anche all'estero, perché lui è molto conosciuto all'estero, io qualcuno mi conosce anche lì, per cui why not? Il disco è dedicato a Valerio Negrini perché mi manca, perché io sono figlio unico ma lui era mio fratello, perché durante la lavorazione di questo disco non mi è mai mancato così tanto, perché lui solo poteva interpretare quello che era il mio feeling e e senza di lui, io ho fatto questa riflessione, ma chi può raccontare me stesso se non è Valerio Negrini? Soltanto me stesso. Ecco perché mi sono cimentato cercando di attirare un po' di benevolenza dall'alto, appunto, da parte di Valerio Negrini, mi sono cimentato e ho voluto scrivere i testi di questo disco, perché mi sembrava quasi come se far entrare una persona che non facesse parte della mia storia sarebbe come far entrare uno in famiglia quando è un estraneo, insomma un estraneo in una maniera di lavorare. Tommy ormai era parte della mia storia, è venuto con noi in una tournée, per cui è parte della mia maniera di esprimermi. Un altro autore non mi sarebbe piaciuto. C'è una cosa bella nella tua biografia ufficiale: prima di parlare della tua carriera musicale, dei tuoi dischi, si parla della tua famiglia, dei tuoi figli e di quello che fanno i tuoi figli. È una cosa di cui evidentemente vai fiero. Un mio amico mi ha detto, si parlava davanti a un bicchiere di vino una sera, dice, ma per i motivi per cui uno vive, no? E allora in un gioco di parole lui mi ha detto, ma scusami, prova a pensare al motivo per cui daresti la tua vita. Qual è il motivo? Ho detto, i miei figli, ecco per quale motivo sei al mondo, ecco. Per cui sì, certo, insomma, l'orgoglio principale, prima ancora della musica, insomma, i figli sono la cosa per cui vibri di felicità, no? La musica è un motivo per cui vibri di spesso di volume sul palco, come succede, no? Di vibri di emozione, di armonia e queste cose. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Dodi Battaglia. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.